la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, sono 16:08 primi e 18 secondi e in diretta qui da Milano un saluto e un ringraziamento per l'ascolto diretto in podcast da Oscar Giannino. Di che cosa parleremo in questa trasmissione? Parleremo della Cina in Italia. Perché ne parliamo? Perché più avanti nel corso della settimana dedicheremo una trasmissione a questo vertice che dovrebbe, europeo, che dovrebbe varare questo grande piano di interventi europeo, finalmente dopo tanti anni di chiacchiere, verso l'Africa. Dico dopo tanti anni di chiacchiere rispetto a, lo sapete benissimo, il flusso di immigrati che dal Centro Africa, risalendo poi nel Sahel attraverso la Libia, riguarda l'Italia ed è uno dei due grandi corridoi, mentre l'altro, quello di immigrazione verso l'Europa, cioè quello balcanico, sapete che per effetto dell'accordo dopo ciò che avvenne nell'estate 2015, cioè l'apertura incondizionata ai profughi da parte tedesca e tutto quello che ciò ha determinato come reazione del Centro Europa e i paesi del blocco di Visegrad, le elezioni che si sono tenute in cui i partiti contrari a questa posizione tedesca hanno preso sempre più forza, e quel corridoio è praticamente chiuso per effetto dei miliardi che poi hanno dato l'Unione Europea alla discutibilissima, almeno per me, Turchia di Erdogan, mentre il nostro tra virgolette canale mediterraneo, sia pur fortissimamente frenato dall'operato con il governo Gentiloni del ministro Minniti e tutte le discussioni che questo pratica su ciò che significa per rispetto ai diritti umani in Libia, tuttavia resta comunque un problema aperto. E allora di fronte a questo l'Unione Europea varerà questo piano che si annuncia con un impegno finanziario molto rilevante, pluriennale, 44 miliardi, qualcuno l'avrà visto, insomma, preannunciato nelle interviste, negli articoli in questo fine settimana, però mi sono detto prima, c'è bisogno di un ragionamento che precede questo intervento europeo, che approfondiremo, tenteremo di capire meglio ovviamente che cosa concretamente significa in termini di risorse e di obiettivi e quanto sia coordinato davvero, perché sapete che fino a questo momento in realtà i grandi paesi europei si muovono ciascuno per i fatti loro, non c'è un vero e proprio coordinamento europeo di questo tipo di iniziative. Mi sono detto però, bisogna prima riflettere su un aspetto fondamentale di cui ci occupiamo anche qui quando riguarda i problemi posti dal commercio in Italia, delle comunità cinesi, da quello che è avvenuto in alcune grandi città italiane, da quello che è avvenuto storicamente nel distretto industriale di Prato e così via, ma non riusciamo mai ad avere un ragionamento complessivo sul rapporto da tenere economico e politico tra Cina e Italia. Perché? Perché la Cina in Africa, in Sud America e in Asia da anni è portatrice di un disegno che è insieme economico, finanziario e politico, di fortissima crescita della sua influenza diretta. Classicamente in Africa e in Sud America realizza importanti progetti infrastrutturali nell'assenza dell'Europa o nella debolezza dell'Europa, in cambio di commodities e materie prime dei paesi in cui interviene, e ovviamente questo costruisce, in pochi anni ha costruito una rete di influenza politica della Cina transcontinentale che ne fa non solo la prima detentrice del debito pubblico e corporate degli Stati Uniti, la vera ragione per cui l'abbiamo fatta entrare di corsa nel WTO nel 2001, ma nel tempo, oltre a esercitare una presenza influentissima in molti paesi asiatici, ne parleremo, tutti quelli toccati da One Belt One Road, cioè la nuova via della seta cinese, che è un discorso infrastrutturale ma è un discorso politico come è evidente, 50 miliardi di dollari dati al Pakistan perché è interessato da un pezzo di questa nuova via della seta, sono come è ovvio influenza politica oltre che forza, presenza economica e finanziaria. Ecco, la Cina fa tutto questo e ovviamente ha una strategia anche verso l'Europa, abbiamo parlato qualche puntata fa, quella sui porti, dei 4 miliardi che ha speso in 8 porti nel Mediterraneo, abbiamo accennato all'idea che si era proposta per un intervento nel porto di Taranto, ma l'abbiamo respinta, mentre ha fatto quello sul Pireo. Vedremo che ha vinto ormai 4 anni fa un'importantissima gara per l'alta velocità in Ungheria, ma l'Unione Europea contesta radicalmente la decisione del governo ungherese. Ecco, la differenza è che la Cina fa tutto questo con una strategia ovviamente, che è figlia di un regime a partito unico e di un sistema pianificatorio. E tuttavia noi non abbiamo una strategia complessiva europea o italiana, tantomeno, nei confronti di questo tipo di triplice rafforzamento dell'influenza cinese, ripeto, industriale e infrastrutturale, primo aspetto, secondo, finanziario, terzo, direttamente geopolitica e geostrategia. Allora, è meglio capire prima, perché altrimenti il discorso europeo verso l'Africa rischia di dimenticare che la Cina lì è diventata molto presente, come è diventata presente in Sud America e in Asia. E però mi sono detto, come farlo? Io vi invito a leggere tutti un libro, che è il libro che più mi è stato utile nei mesi scorsi per fare una riflessione complessiva fuori dai pezzi di cronaca che inseguono le vicende città per città o settore per settore nel nostro paese. Sono stati tantissimi delle questioni dei rapporti italo-cinesi, ma una riflessione complessiva dello stato dei rapporti, della sfida e delle problematiche aperte, delle occasioni che perdiamo anche, nonché sulle tante occasioni in cui in realtà la Cina è diventata un soggetto, tra virgolette, protagonista e molto attivo nei diversi settori dell'economia, anche italiana, in tutti questi anni. Ecco, questo libro, che a me è piaciuto molto e che vi suggerisco, perché è scritto con mano agile, ad averlo scritto sono due giornaliste, però si occupa un po' di mettere insieme tutti i pezzi di questo rapporto ancora non ben indirizzato, almeno da parte italiana secondo me, nell'ambito di una strategia complessiva, quella della Cina nel mondo di Xi Jinping, e mettendo insieme tutto, dallo sport, l'Inter, il Milan, le manifatture, cioè la presenza cinese che cominciò con la Benelli per proseguire poi nel grande accordo che ha uno sviluppo a tappe per Pirelli, la moda, i cantieri italiani, Ferretti e così via, fino ad arrivare però, anzi partendo dal presupposto culturale, quanti studenti cinesi mettono in piano di venire in Italia e ce ne sono sempre di più e perché, per poi passare alla finanza, visto che non abbiamo una cabina di regia davvero centralizzata dei nostri rapporti reciproci per agevolare nostra presenza lì e loro presenza qui. Non vi devo ricordare che Fiat Chrysler ha commesso un errore strategico negli anni rispetto ad altri costruttori globali dell'auto, da General Motors a Ford a Volkswagen, che sono presenti lì con un mucchio di propri stabilimenti rispetto a quel mercato, mentre Fiat Chrysler ha prima sottovalutato e poi sbagliato le sue scelte. Ecco, questo è il problema di fronte a noi. Questo libro si intitola Fozza Cina. Vi ricordate quando questo Fozza Milan, ecco, Fozza Cina, perché si occupa anche di Inter e Milan, ovviamente. Fozza Cina, e si pone il problema. Sotto il titolo Fozza Cina c'è un interrogativo. L'Italia sta diventando una colonia cinese, come molti di voi in ascolto sono, immagino, convinti. Ecco, ad averlo scritto sono Sabrina Carreras, che è una giornalista in forza alla RAI, e Maria Angela Pira, giornalista, anche lei si occupa di economia e finanza, molti la vedono più volte al giorno anche sul canale 507 di Sky sugli aggiornamenti dei mercati per conto del gruppo Class. E Maria Angela Pira è con noi oggi pomeriggio e io la ringrazio personalmente perché ho imparato molto dal libro che ha scritto Maria Angela insieme a Sabrina. Buon pomeriggio e grazie. Grazie a te, anche io ho imparato molto da te in questi ma anni. Pianta. Ma pianta. Senti, allora partiamo dal presupposto che chi sta a casa non abbia l'idea di tutta la tela che voi mettete insieme sulla presenza della Cina, da dove parte e in pochi anni come è diventata rilevante. Io non ti chiedo di parlare del calcio, siamo appena reduci qui da tutti i convocati della nostra trasmissione quotidiana sul calcio, e si è occupato del Milan visto che gli sviluppi sono proprio quelli odierni, si è occupato più dell'allenatore, ma vedremo a breve quale sarà l'evoluzione finanziaria di una proprietà cinese, se non finirà il gruppo Elliott americano. Nel frattempo c'è l'Inter di Suning dal 2016, raccontate strepitosamente la storia del gruppo Suning, che è un gruppo che nasce nel 1990 in una piccola superficie per vendere dei condizionatori e diventa in 15 anni un gruppo che con 180.000 dipendenti e con Alibaba dentro diventa una piattaforma diciamo, mondiale di elettrodomestici. Ma iniziamo invece dall'aspetto meno battuto e che mi ha molto colpito e molto piaciuto. Voi nel libro invece iniziate da quello, cioè la presenza degli studenti in Cina. Perché da zero quasi, mentre Gran Bretagna, Francia, Germania se ne assicuravano negli anni 90 decine e decine di migliaia ogni anno, qui non c'erano, improvvisamente diventano in pochi anni anche qua migliaia e migliaia, non figli di immigrati ma che vengono dalla Cina? Perché vedono il nostro paese come un grandissimo investimento in termini culturali, in termini di patrimonio artistico. Se prima, anche solo 4 anni fa, chiedevi a una famiglia cinese dove vuoi che studi tuo figlio, il tuo unico figlio peraltro nella maggioranza dei casi, e tutti rispondevano Inghilterra, Oxford, Cambridge. E invece adesso le cose stanno cambiando. L'Italia è più conosciuta, probabilmente perché siamo arrivati molto in ritardo, però le cose negli ultimi tempi stanno cambiando, e negli ultimi tempi mi riferisco agli ultimi 2-3 anni. 2-3 anni, sì. E qui c'è un investimento cinese in Italia di cui sicuramente si parla poco, come hai detto tu, anche se negli ultimi 10 anni Oscar non ha fatto che crescere, perché io vorrei darvi un dato che noi scriviamo nel libro: dal 2008 a oggi il numero degli studenti cinesi che hanno fatto, diciamo, una richiesta di iscrizione alle nostre facoltà è aumentato del 264%. Quindi università, accademie di belle arti e conservatori, è una vera e propria, l'abbiamo descritta come invasione in senso buono, che per protagonisti tra l'altro ha proprio i rampolli della nuova classe media cinese, i cosiddetti millennials, ovvero, per chi non conoscesse la Cina, è la prima generazione a non aver vissuto la rivoluzione culturale di Mao. Saranno loro a guidare nei prossimi anni l'economia e la politica cinese, con tutta probabilità. Finiranno qui e faranno un master negli Stati Uniti, e capire chi sono, secondo noi, riguarda anche molto noi. Anche perché a seconda dei rapporti che riusciremo ad avere con questa generazione, il cui capitale umano è in via di formazione, quanti più riusciremo ad attrarne qua, certo, tanto più, siccome rientrano in Cina, voi fate anche questo numero, al ritmo oramai di oltre 400.000 l'anno, e la loro percentuale sale oramai verticalmente nel totale della dirigenza delle imprese di Stato, delle banche di Stato e del partito, tanto più riusciremo ad avere, ad avere uno solido collegamento con le decisioni che prenderanno quando torneranno in patria. Anche se, e questo io non lo sapevo, voi sottolineate che il ritorno non è automatico, il regime può dire no. A chi sta tornando. Infatti non è automatico, nel senso che comunque la gran parte torna, però di fatto potrebbero anche rimanere qui, perché non dimentichiamo che è cambiato in tutto ciò anche il tipo di strategia che la Cina ha affrontato rispetto all'Europa, rispetto all'Italia. Quindi spesso è alla Cina che serve che questi ragazzi rimangano nel paese, per cui sta alla Cina, come giustamente hai detto e abbiamo anche scritto nel libro, decidere se farli tornare oppure no. Nella maggioranza dei casi però, che abbiamo verificato, i ragazzi tornano. Diciamo, non hanno, per essere chiari, visto che un regime a partito unico, e vi abbiamo descritto sabato ai conti della Belva con il nostro Renato Cifarelli, che ha un'impresa per la costruzione di macchine, piccole macchine agricole, che però ha le sussidiarie, 4 sussidiarie in Cina. Vi ricordo che in Cina WhatsApp, in Cina Facebook non funzionano, cioè se andate lì dovete usare le piattaforme equivalenti che hanno miliardi di iscritti, ma non quelle. Quindi in regime a partito unico, diciamo, chi tra virgolette commette l'errore agli occhi dell'autorità di compromettersi un po' con i sistemi occidentali corre il rischio di non ritornare. Andiamo un secondo, una cosa. Grande paura italiana, arrivano i cinesi, si prendono il meglio del meglio e esportano nel loro paese le nostre tecnologie, i nostri headquarters, e buonanotte ai suonatori. L'esempio della Benelli non dice questo, però. No, effettivamente no, e non è l'unico, tra l'altro, nel senso che noi nel libro abbiamo affrontato alcuni casi, tra cui proprio Benelli, ma l'esempio master di tutti, l'esempio veramente scuola guida è quello di Pirelli, mostrano che se si fanno i compiti a casa, e noi ci chiediamo questo su vari casi, tra cui per esempio CDP Reti, che a favore di chi ci ascolta è, come dire, come sai bene, la cassaforte che possiede comunque infrastrutture molto importanti per il nostro paese, no? Che i cinesi mai ci darebbero da controllare, e invece loro hanno comprato il 35% di questo gioiellino italiano. Questo non significa che non sia possibile farlo e non sia possibile aprire il nostro capitale ai cinesi. Significa però farlo con dovizia, cioè fare i compiti a casa, sapere che il 25 dicembre al pranzo di Natale hai dei nuovi soci che sanno benissimo che cosa stanno facendo, i compiti a casa sicuramente li hanno fatti e quello che stanno facendo riguarda una strategia quinquennale, se non decennale, quindi hanno i loro obiettivi e spesso quello che abbiamo riscontrato, Oscar, che invece le nostre aziende vogliono fare cash, esatto, fare contanti, siano in un momento, giustamente peraltro, perché noi abbiamo parlato anche con piccoli e medi imprenditori esausti, un momento di stanca, un momento difficile e quindi il loro obiettivo sia soprattutto vendere. Se questo lo può fare una piccola media impresa, non lo può fare però un'impresa strategica, deve capire a chi sta vendendo e deve fare comunque i propri compiti a casa, la cosiddetta due diligence in senso finanziario, che spesso però non è stata fatta, almeno questo risulta dal nostro reportage. E adesso il caso Pirelli secondo me è un buon esempio di come dopo essersi concentrati nel segmento premium degli pneumatici per aumentare la redditività, aver investito un bel po' rispetto alla media italiana in pochi anni, quasi 2 miliardi di euro in Pirelli sulla strategia proprio di modellare la produzione di massa in cui non poteva essere parte di un grande consolidamento mondiale Pirelli, il quinto gruppo al mondo. Ma detto questo, dopo aver fatto questo, una trattativa lunga e minuziosissima per garantirsi che l'investimento di ChemChina, che ci ha messo un pacco di quattrini, preservi però la proprietà intellettuale, gli headquarters, oltre che per un certo numero di anni anche la guida diretta italiana, a tutela che non avvenga esattamente quello che dici tu. Infatti, per esempio, Pirelli è un caso perfetto, nel senso che noi intendevamo nel libro anche quando tu sigli un contratto con i cinesi, loro versano sul piatto veramente tanti soldi ed è impossibile mettere in piedi delle controfferte, tanto allettanti sono le loro, no? Si vede il caso dell'azienda gioiellino della robotica Kuka in Germania. La Merkel ci ha provato a mettere insieme una cosa da imprenditori, però l'offerta degli cinesi era talmente elevata che l'hanno venduta. Pirelli ha fatto un ottimo discorso perché ha detto: ok, prendete la maggioranza, noi chiediamo innanzitutto di ampliare la nostra quota di mercato in mercati per noi italiani, inaccessibili, come può essere per esempio il sud-est asiatico, che significa comunque un mercato in forte crescita rispetto ai nostri che sono molto stagnanti, e guardo soprattutto ai mercati occidentali, no? Quindi l'Africa, il Sudafrica, e soprattutto a livello di strategia l'headquarter si mantiene qui. Quindi il quartier generale rimane in Italia, il know-how rimane in Italia, la capacità anche di sviluppare tecnologia e attenzione in modo congiunto, perché ci sono molti cinesi ingegneri che vengono qui a Milano e sviluppano la tecnologia congiunta con la Pirelli, per cui si fanno le cose insieme. Questo poi vorrà dire che i cinesi saranno molto più bravi a sviluppare tecnologie in futuro, però di globalizzazione stiamo parlando, è inevitabile che questo accada. I cinesi studiano ad Harvard, non studiano certamente in università minori, per cui questo sicuramente accadrebbe comunque. E però ha fatto, come dire, una scelta dal punto di vista strategico sicuramente intelligente e che sta pagando, perché tra tutte le interviste che abbiamo fatto, guarda caso, la soddisfazione riguardava loro e ci dicevano: le cose stanno andando bene con i cinesi, certo culturalmente siamo molto diversi, ma possiamo lavorare anche sulle nostre differenze. Ora, nella moda voi passate in rassegna i tanti brand che sono tanti, non pochissimi, della tradizionale evoluzione nel tempo in questo settore della forza italiana, Mariella Burani, Crizia, uno su tutti Crizia, e insomma lo slogan che dalla Benelli alla moda ai cantieri come Ferretti, che era praticamente sulla via del default se non fossero intervenuti loro, è quello di avere il design italiano, una produzione per così dire ispirata alla lean production giapponese, e però poi anche una mentalità cinese. A volte è stato problematico, io ricordo a chi è a casa che in Cina si lavora fino alle 10 di sera e all'inizio quando arrivano i manager cinesi in Italia dicono: ma com'è che voi lavorate così poco? Lo so, naturalmente questo ci fa sorridere, però in Benelli il problema c'è stato, tanto che alla fine il management italiano che era rimasto dopo i primi 2 anni diceva: siamo ancora un po' lontani da capirci, per così dire. Però quello che mi colpisce è che mentre molte università italiane, diverse università italiane, il Politecnico a Milano, Milano, Torino, voi le passate in rassegna facendo parlare i protagonisti. Chi nelle diverse università è titolare da anni di integrazione volta all'attrattività reciproca del capitale umano, ma avendo in mente i settori produttivi. Ecco, però una cabina di regia italiana che riguardi l'aspetto del capitale umano, l'aspetto industriale reciproco e delle infrastrutture e l'aspetto finanziario continua a mancare a differenza degli altri paesi. Perché? Infatti questa, per esempio, che tu dici è sicuramente la questione, questo è il punto più importante, perché in Germania esiste, negli Stati Uniti esiste, non parliamo del paese più amico della Cina evidentemente, quindi mettere in piedi una cabina di regia, perché come sai sono tanti gli attori che si muovono intorno alla Cina, quindi si tratta proprio di fare ordine. Purtroppo in Cina piccolo non è bello, questo vale per tutti e vale soprattutto in Cina, perché in Cina conta la dimensione, perché si tratta quasi, usando un paragone, di Davide contro Golia. E se l'Unione Europea avrebbe potuto avere un ruolo importante in questo, perché l'Italia non può giocare a livelli dimensionali quanto la Cina, evidentemente, no? Quindi che cosa si può fare? Si può giocare sul un termine che nel nostro pezzo, nel nostro libro, nel nostro paragrafo dedicato a questo ricorre tanto, ovvero la reciprocità. Come sapete, recentemente si è espresso il Presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, che ha detto siamo a favore del libero scambio sì con i cinesi, però non siamo ingenui. Perché ha detto così? Perché si vedeva che i cinesi qui possono investire un po' dove vogliono, quindi per intenderci possono comprare lo stabile, il palazzo in Piazza Cordusio venduto da Unicredit e possono stabilire lì la sede per la loro banca, ma noi non potremmo mai farlo a Piazza Tiananmen. Quindi il punto è, non si tratta di essere ottusi, si sa che c'è la globalizzazione, si sa che c'è comunque il libero scambio, però bisogna farlo anche in modo un po' più sereno, un po' più concreto. Juncker ha detto in sostanza nel suo intervento, l'Europa deve difendere i propri interessi strategici e per questo si propone un nuovo quadro normativo per monitorare gli investimenti esteri, che saranno monitorati quindi da Bruxelles e poi dai governi locali. Molta chiacchiera, molta chiacchiera. Nulla. Nella realtà, dei fatti, io lo dico come osservatore, sono negli ultimi 10 anni, io ho visto che praticamente c'è un solo settore per la Voice che ha saputo esercitare attraverso la Commissione, virgola, e per il fatto che naturalmente era la Germania il primo paese per la specializzazione della sua manifattura interessato, poi ce l'avevamo noi, un solo settore è riuscito davvero a utilizzare la leva europea per il fair trade nei confronti della Cina e della siderurgia. Non è un caso che la stragrande maggioranza, la sessantina di dazi protettivi nei confronti della Cina da parte dell'Unione Europea di questi ultimi anni, la stragrande maggioranza sono tutti relativi a diverse specializzazioni, diverse sottofamiglie di prodotti siderurgici, e su questo si è incardinato tutto il dibattito della non concessione automatica da parte dell'Unione Europea alla Cina della clausola di economia di mercato, proprio perché la siderurgia era il banco di prova fondamentale assunto negli anni dalla politica europea per determinare che ancora su troppe famiglie di prodotti, per esempio la concessione di credito è discrezionale a condizioni statali e non di mercato, il prezzo intermedio degli input è determinato da tariffe amministrate e non dal mercato, e tutto questo quindi ha incardinato una strategia. Però cari ascoltatori, è quasi l'unico settore ed è colpa del fatto che nell'Europa ci si crede molto poco, a dire la verità. Questa almeno è la mia opinione, non so se sia anche la tua, Mariangela. Assolutamente concordo con te. Tra l'altro ti dico questo, sto preparando questo dossier sulla Cina e mi spiegava un'esperta cinese dell'ISPI, si chiama Alessia Migini, che sostanzialmente sullo status di economia di mercato si sta ancora lavorando. Sì, è così. Questo vuol dire che comunque, non so come dire, c'è sempre stato molto rispetto e non chiusura da parte dell'Unione Europea, però questo rispetto ci deve essere anche evidentemente dall'altra parte. Che è sempre mancato. Senti, io so che ti abbiamo sottratto l'impegno che nel frattempo stai facendo. No, non ti preoccupare, io volevo solo aggiungere un elemento alla tua discussione, così poi mi dici anche che cosa ne pensi. La reciprocità si esprime anche quando Xi Jinping va a Davos, ti ricorderai, no? Il suo discorso, siamo il regno della globalizzazione, esatto. Non funziona Facebook, Twitter, eccetera. Cioè, siamo veramente regnanti nella globalizzazione. Quando facevo la babysitter in Germania e mi si descriveva la Germania Est con la Germania Ovest, mi ricordo che la mia landlady diceva un detto sempre, e il detto è: quando il sole è basso, l'ombra del nano si allunga. Ovvero, in epoca di Kim Jong-un da una parte, Trump dall'altra, anche Xi Jinping sembra il re della globalizzazione. Però invece bisogna stare molto capire con chi abbiamo a che fare. Ecco, un plauso da parte mia, perché io considero il fatto che la limitazione dei diritti fondamentali sia un problema non secondario, ed è meglio non dimenticarselo anche sulle strategie geostrategiche su cui adesso andremo, perché ovviamente un regime di quel tipo è un regime che poi ha strategie non dichiarate. Bisogna essere intelligenti a capirle, ma bisogna avere una reciprocità basata sul reciproco rispetto, ma anche sulla fermezza. Intanto, straordinario libro, ne ripeto il titolo: Forza Cina, gli autrici sono Mariangela Pira e Sabrina Carreras, Ballini e Castoldi, mi ero impaperato l'editore. Grazie a te, torna al tuo lavoro, a presto. Grazie. Noi adesso abbiamo ovviamente gli andamenti di borsa, un po' di pubblicità e poi torniamo per gli aspetti geostrategici che riguardano l'Europa, gli Stati Uniti e la Cina con Francesco Galetti, un altro ospite. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la versione di Oscar. Eccoci qua, tornati in diretta di nuovo per un approfondimento dedicato a Italia-Cina, per così dire. Abbiamo visto, grazie a questo libro che torno a consigliarvi, Forza Cina, Ballini e Castoldi, scritto da due bravissime giornaliste, Sabrina Carreras e Mariangela Pira, che è stata con noi, un resumé di come stiamo lentamente, in ritardo, recuperando la comprensione che ci conviene attirare studenti cinesi che diventeranno parte poi della classe dirigente in Cina. Siamo in ritardo, ma insomma siamo arrivati a 9.000 iscritti nelle nostre università. È un resumé dei settori in cui i cinesi hanno investito, rilevando gruppi italiani anche molto, molto noti. Abbiamo visto il caso della Pirelli, prima quello della Benelli. Abbiamo visto la loro intraprendenza nel farsi vivi non solo su CDP Reti, ma in realtà hanno acquisito poi quote che stanno in Generali, Mediobanca, grandi banche italiane e così via. Lì però li teniamo un po' a bada, per così dire. Però quello che ci manca è una cabina di regia. Nel frattempo, sullo sfondo, una triplice strategia cinese che va avanti ormai dagli anni nella globalizzazione, che è fatta di presenza industriale infrastrutturale, che è fatta di presenza finanziaria e che è fatta di geopolitica e strategia. Ed è su questo ultimo punto che bisogna interrogare adesso, in questa seconda parte della trasmissione. Io vi faccio presente anche questo: in Italia quasi nessuno ci fa caso, ci sono paesi europei che stanno in piedi, magari avendo fatto interventi molto radicali e crescendo molto più di noi, per esempio l'Irlanda. Tutti dicono che l'Irlanda sta in piedi solo grazie alle sue basse tasse. Verissimo, e la forza di quel paese è stata, dopo che ha chiesto e ottenuto grandi aiuti bancari da parte della Troica, visto che gli era esplosa la bolla immobiliare, la bolla bancaria, sta in piedi grazie al fatto di aver detto no all'Europa che gli voleva far alzare le tasse, perché noi non sopportiamo l'idea che in Europa ci sia chi ha le tasse più basse delle nostre, e commettiamo un errore. Ma ci dimentichiamo di aggiungere che nel frattempo sta in piedi grazie alla Cina l'Irlanda, perché dovete sapere che la Cina è arrivata a detenere quasi, in alcuni momenti, adesso sta scendendo, il 70% del debito irlandese e ha presenze nel 50% dei maggiori gruppi irlandesi, non nelle multinazionali presenti in Irlanda. Questo, tanto per darvi un'idea di come la Cina dosa con grande attenzione le sue scelte. E in quel caso la sua scelta era: l'Irlanda è una piattaforma internazionale multinazionale, ci conviene sostenerla, e l'hanno pesantissimamente sostenuto. Visto ovviamente anche la grandezza del PIL irlandese, non era troppo complicato per le loro, ma comunque continuano a detenere la parte maggioritaria rispetto a tutti gli altri paesi del mondo debito corporate americano. Questo spiega perché Trump ha vinto le elezioni dicendo che faceva la guerra mondiale commerciale alla Cina, poi è andato in Cina adesso, in realtà ha sottoscritto accordi per oltre 250 miliardi di dollari, e per il momento la guerra non c'è. Ecco, Per parlarne abbiamo con noi Francesco Galietti, che è un osservatore internazionale, fa una specie di report per clienti istituzionali e corporate esteri sull'Italia e l'Europa, che si chiama Policy Sonar, e su questo quello che gli chiedo è: come mai l'Italia non si pone il problema della geostrategia cinese? Noi facciamo polemiche sulla Cina per quello che riguarda l'immigrazione o le copie del nostro know-how tecnologico, dei nostri brevetti, però è come se non lo avvertissimo questo problema. In definitiva, siamo stati intelligenti a buttarli fuori dal porto di Taranto o siamo stati fessi rispetto agli altri paesi di sbocco sul Mediterraneo che invece hanno accolto quei denari e quella presenza come un aggancio al grande mercato cinese? Grazie di essere con noi intanto, Francesco Galietti. Anzitutto grazie per l'ospitalità. Se c'è qualche rumore sottofondo lo dovete al aeroporto vicino da cui vi parlo. Esatto. Allora, io direi che come sempre l'Italia sconta una fortissima volatilità politica. Il fatto di avere governi dalle fondamenta fragili e dall'orizzonte temporale incerto non aiuta. I nostri sono governi che ragionano, che traguardano i 18 mesi, i 2 anni e che quindi difettano della serenità necessaria per affrontare un tema come quello dell'egemonia crescente cinese nel mondo. E dire che ci sarebbero tutti i presupposti per farlo, giustamente ha fatto il caso di Taranto, l'Italia che pur aveva una duplice presenza cinese nei terminal di Taranto, dove c'erano sia Costco che Evergreen, si trova adesso priva di quei cinesi, con Taranto in crisi e con i cinesi sui due quadranti del Mediterraneo, nel Pireo in Grecia e a Barcellona, ma comunque non sulla bisettrice del Mediterraneo, cioè l'Italia. L'Italia non riesce a gestire il problema Cina con una visuale olistica. Si prende il caso degli investimenti cinesi in Italia. L'Italia è stata non piccola parte delle istanze a Bruxelles per ottenere una vigilanza più assidua sugli investimenti extracomunitari, gli investimenti diretti esteri in Europa. Ha poi dato qualche giro di vite alla disciplina Golden Power, che prevede una serie di poteri di vaglio preventivo e addirittura di blocco, di interdizione su acquisizioni di asset considerati strategici. Benissimo, ci siamo riscoperti patriottici. No, tutt'altro, perché se si sfuoca un attimo l'immagine e si evita di fissarsi unicamente sugli investimenti diretti esteri, ecco che allora l'Italia si scopre nuda. È vero, i cinesi avranno vita un pochino più difficile a fare shopping di aziende strategiche italiane, ma possono tranquillamente entrare da altre porte. Quali? Beh, ne dico due. Allora, la prima è quella del procurement pubblico. È molto facile per i cinesi riuscire a entrare in infrastrutture anche molto sensibili italiane partecipando e aggiudicandosi delle gare bandite dalla Consip. Clamoroso il caso di qualche giorno fa di una società che forniva sistemi di videosorveglianza per immobili pubblici, la Hikvision, aggiudicataria di una gara Consip, e quindi fornirà telecamere a circuito chiuso a tutta una serie di installazioni anche molto sensibili dello Stato italiano. Bene, Hikvision è al 47% dello Stato cinese, e anche se non fosse dello Stato cinese la questione si porrebbe comunque, perché in Cina qualsiasi operatore è tenuto a essere patriottico, quindi a farsi strumento della volontà di potenza del partito cinese, del partito comunista cinese. Primo elemento, quindi i cinesi possono tranquillamente penetrarci banalmente partecipando a gare Consip, dove riescono a offrire dei prezzi che nessun altro riesce a mettere su piazza. Primo. Secondo, i partiti politici italiani sono in vendita. La metto giù piatta, non c'è bisogno di girarci troppo attorno. I partiti politici italiani, grazie a una riforma voluta da Enrico Letta, a partire, cioè da adesso, debba unicamente affidarsi a contributi privati. È finito il finanziamento pubblico. E cosa c'entra la Cina? Beh, Insomma, i partiti gireranno con il piattino in cerca di sponsor e tra quelli più propensi a foraggiare partiti politici non ci sono solo i russi su cui si concentrano le paranoie delle fake news degli occidentali. Sì, certo, la Russia, il tema Russia esiste come, ma la Cina è un tema ben più grosso. Si tenga presente che il sistema italiano, inefficiente quanto si vuole, ma ha ancora nei partiti il proprio perno strategico. Se si apre la Costituzione, il perno dell'intera architettura politica italiana sono i partiti in disgrazia, odiati. Sì, sì, però sono loro. Sono sempre ancora loro. E i partiti dispongono, una volta che sono al potere, pro tempore, di quel potere, fanno un uso spesso discutibile, ma insomma, se un partito si afferma alle elezioni è pro tempore l'azionista dell'ENI, l'azionista della Leonardo, l'azionista dell'Enel, l'azionista della Cassa Depositi e Prestiti, per cui non è che sia proprio necessario comprare in borsa una quota di maggioranza dell'ENI. Devo dire che questa seconda porta di accesso, detta con una certa piattezza da Galietti, mi piace che sia stata detta così, perché mi vorrebbe fare riflettere sul non detto che c'è dietro la politica italiana. Cioè, in altre parole, prima abbiamo accennato alla cessione del 35% di CDP Reti. Come mai c'è tutto questo casino per Bolloré in Telecom Italia, che è privata, e invece quella operazione è avvenuta senza colpo ferire? Ecco, interroghiamoci su quella cosa che ha appena detto Galietti, perché a mio modestissimo modo di vedere certe cose vanno dette piatte, perché forse possono essere le spiegazioni, e possono diventare sempre di più in futuro le spiegazioni di come questa grande potenza, e la Cina ha risorse incommensurabili rispetto alla Russia, esplicano la loro geostrategia nel mondo. In pochi anni la politica estera del cono australe del Sud America e quella di fondamentali economie, quelle che funzionano di più, a cominciare dal Sudafrica, nel continente africano, sono diventate, tra virgolette, non depositarie di una fiducia reciproca, come dicevamo prima parlando con la Piras, del rapporto che bisogna avere, sono depositarie di un rapporto di subordinazione rispetto all'ostrepotere cinese. Attenzione, perché la cosa può riguardare pezzi di Occidente molto più vasti di quanto non si creda. Grazie a Franz Galietti per la chiarezza con cui ci ha parlato. Adesso andiamo a vedere cosa succede sulle strade, poi torniamo con qualcuna delle vostre telefonate. La versione di Oscar. Eccoci qui, torniamo in diretta, cominciamo con Stefania che ci chiama da Ferrara, mi dicono, leggo qui. Stefania, prego. Salve, chiamavo perché la Cina per me è un problemino che sto seguendo da tempo. Mi riferisco ultimamente alla notizia che era apparsa che aveva trasformato uno dei porti africani in un porto militare. Mi sembra il primo passo per iniziare un discorso un attimino diverso dal semplice finanziario commerciale. Eh già. Ed è un po' la strategia che è sempre stata adottata dall'America, da chiunque voglia invadere un altro paese. Allora, qui guardi Stefano, non si tratta tanto di invadere quanto del fatto che in ragione dei programmi infrastrutturali in cambio di commodities cinesi, ripeto, in parte dell'Africa e in America Latina, perché anche in America Latina sono stati realizzati in questi anni di rallentamento dei BRICS interventi importantissimi infrastrutturali, pipelines per esempio in Argentina e così via, avviene con anche protocolli di intensificazione e scambio dei rapporti tra le rispettive marine militari, con la concessione all'inizio semplicemente del diritto di approdo nelle basi. In Africa capita esattamente quello che dice lei. Vale solo la pena che io vi ricordi che l'attuale regime cinese è impegnato in un programma di grande potenziamento delle sue strutture militari. Non c'è solo il problema della rivendicazione della sovranità cinese di tutto, di una parte molto ampia non attribuita dai trattati di sovranità diretta nel Mar Giallo meridionale, nel Mar Cinese sud-orientale e meridionale attraverso gli scogli che diventano basi militari cinesi. C'è l'idea di una vera e propria Marina delle Acque Blu, come si dice, cioè di una presenza dia forza alla commercializzazione mondiale della forza della Cina attraverso presenza diretta anche di proprie squadre navali capaci di intervenire nel mondo, di avere quantomeno dei porti, dei punti logistici di appoggio, per così dire. Sì, quello che ha detto la nostra ascoltatrice risponde ad assoluta verità ed è un pezzo di una strategia a cui l'Europa sembra indifferente. Del resto questa Europa è indifferente a tutto quello che è avvenuto nel Medio Oriente in questi anni, cioè noi non ci siamo. Putin dà le carte rispetto all'enorme, lo avrete capito, contrapposizione tra Teheran da una parte e l'Arabia Saudita del nuovo giovane principe della corona, che dice a Teheran c'è il nuovo Hitler, il tono che ha usato nell'intervista al New York Times a Thomas Friedman di sabato scorso, ed è Putin a dare le carte. L'Europa non c'è. Non c'è. Dopo, noi ci siamo fatti, tra virgolette, trascinare, abbiamo compartecipato a tutti gli interventi militari americani dall'Iraq all'Afghanistan, eccetera, eccetera, e siamo assenti rispetto al vero tavolo in cui si decide tra sunniti e sciiti in Siria, al Libano e Turchia, che cosa diavolo avverrà. E Putin, e non ce ne occupiamo, come se non fosse l'ABC della politica mondiale. Fabio da Bologna, brevissimo perché stiamo andando in chiusura, ma c'è ancora Fabio che aspetta. Fabio, prego. Buonasera Giannino, complimenti per la competenza che dimostra in tanti argomenti. La mia domanda è su una leggenda metropolitana che circola da un po' di tempo. Quale? Chiedo se è vero che gli immigrati cinesi che arrivano in Italia vengono già con un cospicuo quantità di denaro fornito loro dal governo cinese per poter comprare. No, questa è veramente un'agenda metropolitana. Guardate che noi abbiamo tre aree, dal Shenzhen e così via, in cui viene più dell'immigrazione nel nostro paese, e la Cina è caratterizzata da una fortissima economia familiare che riguarda il commercio, perché sono su queste soprattutto l'ondata di prima immigrazione che abbiamo avuto, e le risorse sono di reti commerciali lecite e, se posso dire, anche illecite, ma tutti soldi accumulati così. Non è il partito che gli dà i soldi, ma sono loro che se li fanno, perché si ammazzano di lavoro e dietro ci sono